mare della terra, nel cuore a sospirar nel poro d'orto. Non può sentir nel vero le smanie della terra, nel cuore a sospirar. Ah, ah, ah. Nel buon azzurro. Discendi, e tu non ti distendi, distendi. Oh, sole eroi tornino ad indorar sul sangue il mondo. Vedrai le nostre facce in nobil gara ed infiammarsi il petto. Tu pure del mio affetto soffrirai le finezze per comprere l'onor di questo giorno. E Arcadia scorgerà che il ciel destino che tu sia la mia sposa e mia regina. Thank you. tempo ormai cambiamo il tempio dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi l'onor ai sommi dei qui del nostro gioir devesi il merto andi a Melisa da se lieti auspici sperarmi giuro per favor venuti io cielo ogni or sereno la greggia lieta il praticel più a me Thank you. che tardi più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non vechi più di Megova, il mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Sentite i gravi miei danni, quanta pietà ti avesti, e mi ricordo, creder non ti posso, bugiardo adorator che mia fortuna. Abbian Perseo al tempio e vi si chiudo, in presenza dei nomi, il voto, il giorno. Quindi nasca l'augurio fortunato, buon amore tra noi sempre beato. Sposa, amato, cara sposa, un brindante. grido di vento, né ria tormento, né ria tormento vi tolga dal volere. Tardi più, vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di me gova, immirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti e mi ricordo creder non ti posso bugiardo adora forte mia fortuna abbiam perso al tempio e vi si chiudo in presenza dei lumi il vuoto il giorno chiudasi. Quindi nasca l'augurio fortunato, con amore tra noi sempre beato. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。